Quindi iniziamo le numerate, cioè la A, la B e la C. Ho già fatto più o meno i raggruppamenti, quindi non dobbiamo stare neanche a perdere tempo a decidere chi come. Sì, sono là. Quindi fondamentalmente ci mettiamo prima 8 minuti a servire la partitura. Ah, 8 minuti. E poi dobbiamo trovare per l'esecuzione della partitura, ovviamente non è una copia per ciascuno, quindi visibile a tutti. Cerchiamo di mettere un punto dove è visibile a tutti. Che chiameremo per comodità Beta. Ok, quindi primo score game Bozzi, Adriano e Fabrizio. Bozzi, Adriano e Fabrizio, anche è facile, lo possiamo mettere. Ok. Quindi la partitura è questa. Questa qua. Quindi prendo il cronometro. 8 minuti, ma 8 minuti diciamo che è il tempo massimo. 8 minuti è il tempo massimo, sì. È moltissimo 8 minuti. 8 minuti per decidere? Sì. 8 minuti per decidere. Sì. Ok, da ora. Stiamo in vista. Scusa, posso farti una domanda? Ma sì. Tu hai già in mente che cosa, cioè la tua partitura corrisponde a un'idea tua di esecuzione? Sì, no. Ovviamente. Sì. Che altro un'idea di forma, anche di come interpretare i vari movimenti. Magari potrei anche. L'idea era di farle in solo un po' le cose. Poi sono passato un po' a utilizzare diversi colori, quindi era bello il trio. Però mi interessava capire un po' più o meno come le persone si organizzavano. In teoria, se è un trio, ognuno si può scegliere un colore. Anche questa è l'analogia, la prima. Però non è. Esatto, però non era l'unico punto. Anche perché poi se il primo gruppo fa questo. Lo fanno tutti. Quindi il secondo gruppo deve trovare un'altra. O magari prendere quello che c'è di buono. Comunque, un minuto è passato. No, mi interessava sapere tipo come vi organizzavate, cioè nel senso se vi volete organizzare. Innanzitutto possiamo decidere da che parte guardarla. Sì, l'ho messa la messa online, la messa casualmente. No, ha un senso che rimanga così? Sì. Sì. È un asse frequenza tempo? Potrebbe anche essere, ma questa è una. Sì, questo lo possiamo decidere. Una notazione tradizionale, sì. Questo lo possiamo decidere noi. Sì, assolutamente sì. Perché io, ad esempio, più che frequenza tempo lo vedrei anche come dinamiche. Ad esempio questo. Sì, sicuramente. Questa proprio. Se vista così sembra proprio una scelta di diminuendo, anche fin troppo esplicita. Però boh. Ma diminuendo di cosa? Di qualsiasi cosa, di un suono, cioè sì, un intervento molto forte, più debole. Quindi stai ripetendo una struttura musicale? Sì, potrebbe essere una cellula che si ripete e via via a morire. Potrebbe essere, può essere qualsiasi cosa. Può essere questo, però giusto questo, perché poi il resto magari no. Benché ci sia una. Volendo anche un'analogia in questa forma qui, sono un po'. Perché poi, come dire, essendo una partitura grafica, il lato pittorico prende anche. E quindi c'è. Io vedo molto una struttura un po' a triangolo così, no? Sì. Anzi, no, più che a triangolo. Insomma, leggiamo da qui verso qui. In questo senso. Che non. Poi. Il che non vuol dire che deve avere per forza un valore musicale, però. Boh. Frequenza tempo. È un po' fuori campo anche perché. Cioè lo spazio è occupato molto, addirittura. Sì, è molto difficile riuscire a immaginare un puntillismo qua. Gli è mancato lo spazio, perché di là sembra un segno non finito, anche qua un segno che invade, che, sì, che invade il prima, diciamo, il... Ma, come siamo? No, no, va bene, no, Sì, no, no, proviamo a... Scegliamoci un colore. Io starei su quello che c'è, però non sull'interpretazione. Questo è quello che ho sentito, è arrivato sì, dopo 4 sì, minuti. Perché... Aspettavo la prima cosa. Cioè, su quello che c'è... Cioè, no, cioè senza stare a... Ognuno può agire, quella lì è una roba che si ripete. Poi, così come questa. Ognuno decide di metterci già... l'anima che vuole. Che può essere una struttura, un modulo, una cellula che si ripete, può essere... un suono che decreta. Vediamo so, anche improvvisando se ci viene in mente un parametro piuttosto che un altro, se vogliamo fare non so. Forse il può essere carino decidere se tutti provano a fare tutto. Carino, sì. Oppure io proverei così. Proverei così perché può essere anche interessante il fatto di vedere, come dire, quanto ognuno ci mette a arrivare. Beh, abbiamo perché è possibile che uno arrivi a 8 minuti che è appena qui, uno che a 4 minuti è già. Beh, no, ci sono però deve durare 8 minuti. Però ci sono delle cose di riferimento che possiamo possiamo capire, insomma, sicuramente chi sta suonando questa chi è concentrato più su questa parte, chi invece sta seguendo uno sdoppiamento di segnale, uno sviluppo appunto che sale con la frequenza man mano che si va avanti. Quindi insomma non dovremmo sbagliarci di troppo sull'organizzazione del tempo. No, sulla densità, che idea avete? Vi sembra una roba veloce oppure una cosa lenta, una cosa. Mi sembra una cosa lenta e mi sembra molto macchiata di interventi, non morbidosa. Sì, io non so. Esatto. Vabbè, di questo appunto ne abbiamo già parlato. Questo sembrerebbe quasi una cosa che parte pressoché puntillistica e si trasforma, e questa è una specie di nuvola polverosa. E quindi con questo tenderei a, se lo dovessi interpretare con in un solo, lo vedrei così. E quindi però abbiamo, infatti questo intendevo prima, lo chiedevo, perché qua abbiamo la possibilità di stratificarci. Chiaro che con un solo, se decidi, ti devi un po' arrangiare se vuoi sia un suono lungo che suoni veloci, esatto, brevi. Devi interpretare mentre in tre magari possiamo. Beh, può essere interessante il fatto di, come dire, di scegliersi magari ognuno un percorso e cercare di anche di capire l'altro che percorso sta facendo, o farsi un'idea del. O ce lo dichiariamo dall'inizio. Allora io prendo, non so, interpreto più o meno il colore giallo. Io volevo il blu. Da come sei vestito dovresti stare sul blu, però. Che fa pannato. Sei un perfetto. No. Sono storicamente vestito male. Non lo so, io no. Allora, cosa prendi il giallo tranquillamente. Cosa dite? No, io no, non farei la scelta di si sceglie i colori. No. Sinceramente no. Perché poi. Lasciamole a quelli del gruppo dopo. No, io farei una scelta grosso modo come di prendere ciascun episodio come un pannello e grosso modo però seguire il percorso da sinistra verso destra. No? Non ho capito. Cioè, un pannello nel senso che lui uno... vede tre cose, no? Una parte iniziale, una parte più centrale, più questa zona finale con il blu, quindi mantenere questa con il blu o il blu e il giallo sotto, il giallo sotto, sì, una... sì, sostanzialmente sì, diciamo un'isola più statica al centro, insomma, sì. una cosa del genere, sì. Per quanto questo segno forte, insomma, mi intrighi anche un bel attaccone di forza, perché insomma qui c'è anche questo segno. Beh, ci possiamo dare dentro. Non so, io ad esempio sarei tentato un bel attacco forte e poi da lì ognuno si prende una strada. Bene. Interessante. Forse lo mettiamo così, lo vediamo, sì, così lo vedi, perché tu sei un po'... Tanto le note non... Sempre il re maggiore. No, Paolo non vedere i bemolli. Ok. Time is up. Qui metto il cronometro. Timer. Here we go. Eh sì, domani. No, facciamo senza, sì. No. Vabbè, suonerà. Io faccio senza, tanto non lo vedrò. Ma vedilo qua, guarda. Così magari vi faccio un cenno. Okay. Ogni paio di minuti.